Benvenuti a questa prima serata della nostra scuola genitori organizzata dall'AGE. AGE significa Associazione Genitori ed è un'associazione riconosciuta a livello nazionale che ha come finalità la collaborazione fra la scuola e la famiglia e la formazione dei genitori. La sezione di Mondovì si è recentemente ricostituita. Presidente storico, il signor Bruno Diale ci ha dato una grossa mano nel ripartire e continua con noi questo percorso e siamo tutti molto, molto orgogliosi di fare questa prima uscita pubblica con questo ciclo di incontri formativi che pensiamo non sia solo utile a noi genitori, ma possa essere anche utile a tutti coloro che giocano dei ruoli educativi con i nostri figli. Per la progettazione ci siamo rivolti ad un grande esperto, il dottor Ezio Aceti, che questa sera ci parlerà delle dinamiche educative nella società contemporanea e nei prossimi mesi ci manderà dei suoi collaboratori a trattare temi altrettanto importanti come lo sviluppo del bambino dalla nascita all'età prescolare, le problematiche psicologiche dell'adolescenza, l'aggressività, la comunicazione genitori-figli. Il programma preciso con i titoli e i relatori e le date lo riceverete alla fine della relazione del dottor Aceti, quando vi spiegherò anche le modalità per iscrivervi alla scuola. Speriamo davvero che vogliate rispondere in tanti a questa nostra proposta con l'entusiasmo che ci abbiamo messo noi nell'organizzarla, perché davvero crediamo nell'importanza di questi momenti formativi di riflessione, di ascolto, di suggerimenti per diventare sempre un po' più consapevoli del nostro ruolo di genitori. E ci hanno creduto in questo progetto anche autorevoli istituzioni locali, quindi senza le quali non saremmo riusciti a fare nulla. Ringraziamo quindi la Fondazione CRC, l'Unità Pastorale di Mondovì, l'ufficio famiglia della diocesi di Mondovì per il loro contributo in denaro e il CSV perché ci ha permesso di stampare il volantino pubblicitario, i dirigenti scolastici che ci hanno aiutato a diffondere l'iniziativa attraverso i diari dei nostri figli alle elementari e alle medie almeno e il comune di Mondovì che ci ospita qui questa sera. E a questo proposito lascio volentieri il microfono al nostro sindaco. Brevissime parole. Intanto ringraziando per l'invito che mi è stato rivolto a partecipare questa sera e anche a portare un saluto, anche se giustamente l'interesse oggi è immediatamente ascoltare il dottor Aceti, che dall'alto della sua esperienza e della sua professionalità sono sicuro renderà questa serata particolarmente lieta e particolarmente piacevole. Anzi, devo dire che per alcuni versi, credo che la comunità monregalese deve sentirsi per alcuni versi anche onorata di averlo quest'oggi, visto che arriva anche da lontano e so che i suoi impegni sono intensi ancora questa sera, quindi se gli facciamo subito un applauso per augurargli il benvenuto. Ma devo dire intanto che devo esprimere soddisfazione di vedere ancora una volta come il tessuto associativo, soprattutto nel settore sociale della comunità monregalese, sia particolarmente vivace e quindi non posso che salutare con grande favore il ricostituirsi dell'associazione AGE. So che ha ripreso la sua attività solo da pochi mesi, ma direi che questo esordio è un esordio sicuramente molto illuminato, tra l'altro anche impegnativo, perché questa è la prima serata, ma come ci veniva giustamente ben richiamato prima, sono ben 5 gli incontri, quindi un ciclo che giudicare anche della disponibilità di presenza questa sera è sicuramente raccoglie la sensibilità di tutti noi genitori. Ma credo davvero che il compito che l'associazione, ma in particolar modo i temi della famiglia, della scuola, dell'educazione, siano temi che raccolgono il nostro grande interesse, in particolare in un momento in cui la società si trasforma e nuove esigenze emergono. Io spesso richiamo le difficoltà che le famiglie incontrano laddove quotidianamente si confrontano con le difficoltà di conciliare i tempi. Sappiamo che larga parte delle famiglie oggi vedono entrambi i genitori lavorare, spesso non ci sono disposizione in alcuni frangenti, ma per di più, come dire, conciliare i tempi della cura dei figli, della loro educazione, della loro socializzazione è sicuramente cosa molto difficile. Quindi interrogarsi tanto più con queste trasformazioni sociali in questo momento sul ruolo educativo credo che sia davvero una grande opportunità. Quindi grazie davvero per l'occasione che l'AGE oggi ci regala e buon ascolto a tutti e grazie ancora al dottor Aceti che è qui con noi questa sera. Grazie. Bene. Ora passiamo la parola al dottor Aceti. Prego, con l'altro magari. Così posso... Eccoci qua. Buonasera. State bene? Bene, mi presento, mi chiamo Ezio Aceti, mi occupo di bambini, adolescenti, dinamiche educative da tanti anni, tanti anni. Io prima di cominciare faccio sempre una premessa. Ci tengo tantissimo alla premessa, tantissimo. Più di tutto, più di tutto. Per cui, una volta finita la premessa, possiamo andare a casa. La premessa è questa. Facciamo andar bene questo incontro. Qui forse. Chi gestisce l'audio forse è bene che... Facciamolo andar bene. Voi rinunciate una sera, io vengo da lontano, vengo da Lecco. E come si fa a far andar bene un incontro? Semplice. Adesso sono le 9, sono 10:30, 11, quando avremo finito, saremo un pochino più contenti, tutti, tutti, tutti, sarà andata bene, se no non sarà andata bene, ma voi potreste dirmi, ma chi sei tu per farci contento? Io non sono nessuno, ma c'è un sistema per essere contenti tutti, che dovrebbe essere l'unica cosa fra di noi, fra di voi, tutto il resto non serve a niente, credetemi, a niente, e il sistema è questo. Speriamo di poter avere fra noi questa sera quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cos'è la comunicazione empatica? È quel qualcosa che succede fra la gente che non è legata al contenuto, ma al rapporto. L'avete vissuta la comunicazione empatica? Ti è mai capitato durante la settimana, la vita le dura, la baracca le dura, poi ti capitano dei momenti belli? Era lì, è l'humus, è l'atmosfera fra di noi. Ti è mai capitato di dire una roba a tuo figlio e sei arrabbiato? Il giorno dopo gli hai dato la stessa roba ed è passata. Perché c'era la comunicazione empatica. È l'unica cosa che conta se l'avessimo in politica la comunicazione empatica. Come si fa ad averla? C'è un sistema solo, uno, che noi dobbiamo essere qui. Ma voi dite, noi siamo qua. Ma si può essere qua in tanti modi, col pensiero che va via. Se invece noi siamo qua con questa dinamica, con questo ascolto e rapporto reciproco, vedrete che andrà bene, perché quello che conta non è quello che io dico, ma quello che costruiamo insieme. Seconda premessa, io userò qualche slide. Ci diamo i tempi. Che ore sono te, Davide? 9:03. Tu a 9:45 mi devi dire di smettere, senza usare violenza, con delicatezza, così. Poi un bicchiere d'acqua e poi facciamo un po' di dibattito. Ok? Allora... Fatta questa premessa, cominciamo. Non dirò tutto, ma qualcosa dirò. Primo, andremo a vedere a che punto siamo oggi sull'educazione. Andiamo a vedere a che punto siamo. Poi andremo a vedere i momenti difficili di oggi. I momenti difficili. Poi vedremo... qualcosa sui figli e le risposte errate, perché noi stiamo abbandonando i nostri figli, noi stiamo abbandonando tutti i nostri figli, nessuno me lo toglie dalla testa. Guardate, c'è un libro bellissimo che si chiama L'epoca delle passioni tristi. Sapete cosa dice sto libro? Che i nostri figli, i nostri giovani, c'hanno le passioni corte, corte, non c'hanno voglia di diventare grandi. E c'hanno ragione, hanno mille ragioni. Noi che siamo qui, qualcuno che è qui con i capelli bianchi come me... Quando era giovane, magari avevamo meno roba, però volevamo diventare grandi, grandi. Perché oggi i nostri figli non vogliono diventare grandi? C'hanno ragione, vedremo che li abbiamo fregati noi. E poi vorrei dirvi una cosa, non so se farò tutta quella roba lì, vorrei dirvi una cosa. Siamo tutti genitori. Io vi auguro di campare 100 anni tutti. Ma quando moriremo, che cosa lasciamo ai nostri figli? Ci sono alcune cose che noi vogliamo lasciare loro, che quando non ci saranno più, loro porteranno avanti. Le ho chiamate le verità fondamentali, perché noi non diamo più loro il motivo per avere dei rapporti lunghi, delle speranze, per forza. Abbiamo corso dietro a tutti questi mass media qua, sti robi qua, spendiamo un sacco di tempo a parlare di cellulare, di computer, tutte queste robe qua, che è una battaglia persa, è persa. I nostri figli sono più sgamati di noi, sono capaci sul virtuale, molto di più di noi. E ci siamo dimenticati di dargli altre cose, che le abbiamo dentro tutti. Viva Dio, se non gliele diamo noi queste verità qua, chi gliele dà? E chiuderò sull'educazione dicendo qualche cosa. Queste sono un po' le cose che vedremo. Bene, andiamo veloci. Allora, la prima roba, andiamo a vedere a che punto siamo oggi sull'educare. A che punto siamo? Per fare questo faccio il paragone come era una volta l'educazione. Nella società patriarcale, l'educazione, il paradigma che muoveva l'educazione di una volta era la norma, la regola, l'autonomia. Era così, se un bambino faceva qualcosa che non andava bene per la strada e interveniva qualsiasi adulto a riprenderlo, i genitori ringraziavano. Potete intervenire adesso, provate a intervenire, ti denunciano, al sindaco trova la denunciano. Non solo, quindi la norma, la regola al centro. C'era un'altra roba, la vogliamo capire, la cosiddetta coerenza educativa. Cosa è la coerenza educativa? Quello che uno sentiva dire in famiglia, glielo diceva il prete, glielo diceva la comunità e glielo diceva a scuola. C'era una unità di intenti, per cui anche se un bambino nasceva in una famiglia un po' destrutturata, aveva la possibilità di crescere bene, perché c'era questa coerenza. Sta coerenza faceva sì che passavano le robe, anche se non venivano dette. Parlo ai maschi che sono qua, i maschi, di una certa età. Pensate alla sessualità. I maschi vecchi bacucchi come me mica avete fatto l'educazione sessuale, figurati te. Però, tutti noi sapevamo che dovevamo arrivare a 23-24 anni e essere padroni di noi, anche se nessuno ce lo diceva. La coerenza educativa faceva sì che alcune cose passavano anche se non venivano dette. La terza caratteristica della società di una volta era questa, che c'erano, non è scritto, c'erano pochi stimoli. Io sono convinto che Mondovì non c'aveva tutte le case che ci sono adesso, non c'erano tutti gli stimoli che ci sono adesso. E voi dite che cosa c'entra? È importante questo. E la quarta roba, quello che ci porta, che l'educazione di una volta si diceva che era autorevole. Ai nostri vecchi noi ci avevamo tutto rispetto, ed è così. Se vi dico come sono finiti i vecchi adesso, noi abbiamo abbandonato anche tutti i nostri anziani. Allora, una volta, norma, regola, autonomia, coerenza educativa, pochi stimoli, e poi c'era molto più rispetto, più autorevolezza. Questi erano i punti di forza, ma c'erano anche dei punti di debolezza, signori miei. Troppo comodo di dire che andava tutto bene. Se noi siamo intelligenti, quando ti volti indietro, devi guardare le cose belle e le cose negative. Ogni società aveva dei punti di forza e di debolezza. Quali erano i punti di debolezza della società patriarcale? Mi riferisco alla gente che è qui con i capelli bianchi. Quante volte avremmo voluto rispondere ai nostri genitori? Quante emozioni trattenute? Quanti sentimenti tenuti dentro? E la donna, quanto hanno sofferto le donne? Pensate alla sessualità. Una volta sai che era paura di parlare della sessualità. Oggi l'età media del primo rapporto sessuale è 14 anni e 8 mesi. E ci hanno ragione i nostri figli, se noi li abbandoniamo. Allora, non solo. Tutto ciò che riguardava libertà e emozioni veniva tarpato. Allora una volta convivevano due cose, l'autorevolezza e l'autoritarismo. Chiudo questa parte ricordandoci il libro Padre Padrone di Gavino Ledda, questo figlio che aveva il terrore a parlare col padre. E una volta l'era così, con i pro e con i contro. Un insegnante poteva tenere una classe con 30 bambini, 40 bambini e non c'erano problemi. Bene, a che punto siamo oggi? Oggi, a che punto siamo? Primo, il paradigma che muove la società oggi non è la norma, la regola, l'autonomia, non è questo. Volete capire i bambini, ragazzi, oggi avete una porta d'ingresso, una, l'emozione. Oggi al centro abbiamo le emozioni. E anche per la Chiesa è così, anche per la Chiesa è così. Se non si sveglia la Chiesa li perdiamo tutti, tutti. È l'emozione al centro. Il paradigma che muove oggi è questo. E guardate che non sto dicendo né meglio né peggio, cerchiamo di usare la testa. Se l'emozione muove, oggi una persona fa una cosa se la sente, se non la può fare. La seconda cosa di oggi, non c'è più la coerenza educativa, poche storie. Quello che uno sente dire in famiglia, il pretino non glielo dice forse neanche più, a scuola è diverso, la televisione è diverso. Vedete, voi dite, ma questo è un vantaggio. Signori miei, se voi avete un'idea diversa da me, se anche noi abbiamo idee diverse, può essere una ricchezza. Perché avere idee diverse, avere un'idea, il pluralismo, se è condotto bene, è bello. Perché se noi abbiamo idee diverse e riusciamo a trovare un accordo, meglio. Ma un bambino che è in crescita, a un ragazzo preadolescente, che sta costruendo la sua identità, non gli posso dire cacchio, queste sono 10 idee, scegli te. Non possiamo far così. Il pluralismo educativo, l'abbiamo chiaro, rischia di diventare un caos per i nostri bambini e i nostri ragazzi se non abbiamo un pochino di idee chiare. La terza caratteristica di oggi, che lì non è scritto, oggi non c'è più un unico stimolo, siamo pieni di stimoli. L'esplosione dei mass media è stata forte, un colpo d'onda forte. È così. Abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo visto che la zucca di un bambino oggi, dagli 0 ai 6 anni, è completamente diversa dalla nostra. Abbiamo fatto 1000 fotografie nelle camerette dei bambini di oggi, le abbiamo confrontate con 1000 fotografie nelle camerette dei bambini di 30 anni fa. Come sono le camerette dei bambini oggi? Sono piene di robe, piene di robe, piene di robe. E abbiamo visto che la zucca di un bambino oggi riceve 47 volte di più gli stimoli di quelli che abbiamo ricevuto noi. Cari signori, vorrei farvi una domanda. Se la vostra zucca fosse bombardata dagli stimoli, che cosa fareste? Datemi una risposta a questo e cominceremo a capire qualcosa dei bambini. Non sappiamo niente dall'infanzia, niente. Io stasera vi dovrò parlare dell'educazione. Se fosse per me, passerei tutta la sera a parlare del bambino dagli 0 ai 6 anni. Noi non sappiamo niente dei bambini. Se la mia zucca è bombardata di stimoli, metto insieme la capacità che un bambino oggi ha di collegare le cose, noi ce la sogniamo, è straordinario, metti insieme, e questo può essere prodromo per il futuro. Come sarà il mondo del domani? Sarà un mondo globale o no? Avremo bisogno di giovani che collegheranno tutto. Terzo, i sacerdoti sono capaci di vedere la traccia di Dio nel virtuale, la traccia di Dio. Spiego, la rivoluzione francese ha portato 3 nomi, liberté, égalité e fraternité. Cos'è la fraternité? Non è che noi siamo fratelli perché ci diamo la pacca sulle spalle solo. La vera fraternità è quando io con la mia zucca sono capace di entrare in te, di capire quello che tu vivi. Il virtuale contiene una potenza enorme se noi non rovineremo i nostri figli. Ma io dubito, non conosciamo niente dell'infanzia. Un'altra roba, sarò molto duro stasera. Ma Heidegger diceva ci vorrà pur qualcuno che difenda l'uomo. Vedete, una delle più grandi sciocchezze che abbia mai sentito è quando sento le mamme che dicono che vogliono bene i bambini. Non è vero! Sono balle! Spiego. C'è qualche donna che è sposata qua, tu sei sposata. Perché hai scelto il tuo uomo, te? Spiegami. Perché l'hai scelto? Oddio. Mi sono innamorata, proprio un colpo di fulmine è stato, davvero. Povero uomo, mamma mia. Allora spiego. Parlo alle donne che sono qui. Care donne, ammettiamo che vostro marito, il vostro compagno, il vostro amante, qual cacchio che volete voi, vi venga a dire, sai, io ho scelto te perché tu sei una donna come tutte le altre. Beh, voi vorreste, sei scemo. Voi vorreste sentirvi dire questo, ditemi se sbaglio. Voi vorreste sentirvi dire... Io ho scelto te perché tu sei diversa dalle altre, oppure io ho scelto te perché tu sei fatta così, così, così. Cosa vuol dire questo? Che l'amore non è generico, è un amore personale. Così quando una mamma mi dice che voglio bene un bambino, sono storie, a meno che conosca come funziona quel bambino lì. Il dramma di oggi è questo, che noi non sappiamo, neanche le mamme. Sarebbe lunga, non conoscendo e nasce il pregiudizio. Siamo pieni di pregiudizio. Pieni! Vi faccio l'esempio di 3 o 4 pregiudizi che ci abbiamo in testa. Il primo, che esistono i bambini capricciosi. Non esiste nessun bambino capriccioso sulla faccia della terra! Oppure che nell'educazione uno ha ragione e l'altro ha torto. Toglietevelo dalla testa! In 30 anni che lavoro con i bambini non mi è mai capitato una volta che uno ha ragione e l'altro ha torto. Tutte e due abbiamo ragione. Oppure che nella scuola elementare ci sono i bambini lazzaroni. Non ho mai trovato un bambino lazzarone. Ci sono i bambini demotivati. Se io non do il nome giusto, è pesante, voi dite, ma che cosa c'entra questo? Vi faccio vedere il veleno del pregiudizio. Se voi andate in un posto e ci sono 10.000 persone e queste sono su, sono su, sono su, cacchio, dopo 3 giorni vi tirate su anche voi. Ma se queste sono giù, sclerate anche voi. Il pregiudizio è questo, è lo sguardo che io ho sull'altro. Il problema della società di oggi è che non abbiamo più luce, non siamo più capaci di vedere i nostri figli nel dover essere. Un indice, guardate, è semplicissimo l'indice. Guardate al tasso di denatalità. A me me frega ni gut di che partito votate voi, fate quel cacchio che volete. Ma una società che non ha dei figli, diventiamo vecchi. Italia 1.4. E sapete perché? Non solo perché il figlio è un... tutto quello che volete, tutte le cause che volete. Perché si sono dimenticati di farci vedere la bellezza di un bambino. Ci hanno fatto vedere solo i costi, le fatiche che ci sono. Ma noi siamo capaci di vedere la bellezza di un bambino. Chiudo questa piccola parte qua con una proposta. C'è qui il sindaco e l'assessore presente, solo qua. Noi psicologi infantili abbiamo un sogno, uno. Io non sono nessuno, ma in Italia abbiamo delle ottime psicologhe infantili. La Maria Rita Parsi, Lori Riviero Ferrari qui, la Vegiati Finzi, la Bertone, la Iafrat. Noi ce n'abbiamo uno di sogno, uno, che in tutti i comuni d'Italia, tutti, venga reso obbligatorio che quando una mamma, un papà hanno un bambino piccolo, facciano 2 o 3 incontri per sapere come funziona quel bambino lì. Io sono convinto che noi risolveremo un sacco di problemi in partenza. Se la pianta la metto giù bene, la verso bene, ma noi pensiamo di sapere sull'infanzia, non sappiamo nulla, vi spiego com'è l'infanzia. Noi siamo passati dal 700, quando il bambino era considerato una tabula rasa, al 2011, quando Stern ha dimostrato che l'ottimismo in un bambino nasce nel 4° mese. Pensate se tutte le madri d'Italia sapessero come far nascere l'ottimismo nel loro bambino al 4° mese. Avremo una generazione di ottimisti, ma noi siamo ciechi. La televisione peggio ancora. Ma non è possibile, non è possibile che i sindaci, gli educatori, i responsabili di associazione non protestino su questo. Abbiamo una fogna televisiva con tutte queste scemate e non abbiamo in Italia una rubrica settimanale sulle reti nazionali che ci parli della genitorialità e dei bambini. Non ce n'è una. Una, uno spazio. Siamo ciechi e stolti. Bisognerebbe fare quello che è avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'era un tasso di analfabetismo molto alto, ve lo ricordate? Abbiamo fatto una campagna di alfabetizzazione in tutta Italia. Ve le ricordate la trasmissione Non è mai troppo tardi del maestro Mansi? Quanto bene ha fatto! Perché noi oggi non possiamo, di fronte al vuoto educativo, alfabetizzare a livello educativo tutte le nostre genitori? Questo è quello che stiamo un po' vivendo. Di fronte a questa società un po' faticosa ci sono alcune fragilità. Quali sono le fragilità? Le fragilità sono queste. Primo, i nostri bambini sono iperstimolati. Iper. Voi dite cosa c'entra questo? Spiego. Galimberti, il nostro filosofo, dice che in questi 40 anni con i mass media sono venuti molti più cambiamenti che non nei 1970 che ci sono stati prima. Non è un cambiamento così quello che stiamo vivendo. Finiamola di dire passerà. Balle! È una rivoluzione. Tant'è che e Galimberti aggiunge una frase, ma noi genitori siamo pre-tecnologici, non siamo capaci di gestirla. Non siamo capaci. Sul virtuale siamo tutti bloccati. La seconda. Queste iperstimolazioni, che cosa ci hanno creato? Guardate come sono i nostri bambini, i nostri ragazzi. Guardateli come sono. Se io dessi in mano un foglio di carta a tutti gli insegnanti delle scuole materne, elementari, medie di Mondovì e dicessi loro, belle mie, scrivetevi su questo foglio di carta qua quali sono le cose con cui fate più fatica con i vostri bambini e ragazzi, scriverebbero così, non la zucca, che sono ipercinetici, non sta seduti sulla sedia, difficoltà di comportamento, difficoltà di concentrazione, tutto questo. Questo riguarda l'emotivo, vuol dire che le emozioni debordano. E se poi dicessi, ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i nostri bambini sono piccoli dentro. La maggior parte dei vostri figli, soprattutto maschi, adolescenti, hanno 14 anni qua, ma emotivamente hanno 6-7 anni, tutti. Tutti! E se sono maschi, peggio ancora! Perché noi cacchio li abbiamo abbandonati i maschi, abbandonati letteralmente! Mi piacerebbe che il sindaco di Mondovì dicesse, su 100 adolescenti in disagio che ci sono, quanti i maschi e quanti sono le femmine? I dati nazionali dicono che il 68% sono maschi e il 32% femmine. Perché? Beccati 100 ragazzine qua, adolescenti, e 100 maschi qua, della stessa età. E ammettiamo che tutti dentro sono arrabbiati, vuol dire che hanno le emozioni di arrabbiatura dentro. I maschi, di questi 100, 80 sono cazzotti, violenza e tutto il resto, le ragazze sono 20. Perché? Il maschio fa fatica oggi. La crisi del lavoro, ci parliamo fuori di te, fuori dei denti, con veramente un po' di intelligenza. Sapete che cacchio è la crisi del lavoro? È una crisi etica. È il banchiere disonesto, no? La Grecia ha barattato i conti, no? Sapete a che età la si dà l'etica? Se noi amassimo i nostri figli. La si dà ai 6 anni l'etica. A 6 anni si dà l'etica. 6. Perché il bambino è come una pianta. È una pianta perché la venga su dritta, ha bisogno di 2 robe. Del seme e del terreno. Il terreno è tutto il tessuto educativo. La causa principale di queste fragilità dei nostri figli, di queste poche autonomie, è su base educativa. Naturalmente loro sono molto intelligenti, ma è questo, è questo. Allora il maschio fa più fatica, ma anche a livello pedagogico. Che fine fa un maschio? Gli affari donne, va alla scuola materna di tutte donne, la scuola elementare di tutte donne, la scuola media di tutte donne, le catechiste di tutte donne, ma è un disastro! Spiego, è un disastro! Perfino il filo, cacchio, prima gli erano i maschi che facevano il filo, solo le donne fanno il filo oggi. La società ha fatto questo spostamento qua. Se una volta la società era patriarcale, non perché il papà stava vicino, non ho mai detto questo, patriarcale ed era anche maschilista, becera a volte, quanto danno ha fatto la donna. Oggi la società si è spostata in questo asse, è diventata femminilizzata, che non è il femminile, perché il maschile è bello, il femminile è bello. Il maschilismo è becero e la femminilizzazione oggi è tutta femminilizzata. Guardate la televisione. Qual è il dramma della televisione? C'è un dramma, cacchio, che è allo stesso tempo dedicato al Grande Fratello. Lei stessa è quello del problema della fame. Non c'è più una gerarchia delle cose. Non c'è più la cosa più importante rispetto a quella meno importante. Lì abbiamo rimbambiniti tutti i nostri figli da questo punto di vista qua. Perché siamo arrivati qua? Perché? Semplice. Una delle cause principali è il maschio che non è più capace di esserlo. L'aveva previsto un grande filosofo, sapete. I filosofi sono delle bestie. Loro riescono a dirti prima quello che capiterà dopo. E uno di questi, che ce l'aveva a morte con la Chiesa, purtroppo, ma questo non vuol dire che non era un genio, era Nietzsche, e ha detto, e arriverà il tempo in cui non ci sarà più la norma, la regola, l'autonomia, in cui uno farà quel cazzo che vorrà. In cui non ci sarà più il padre. Questo era Nietzsche. Non è questo il termine. Se vi chiedessi di che cosa brontoliamo oggi, che non c'è più rispetto, che non c'è più le regole, che i nostri figli sono viziati, che sono dei bebè, che non c'è più etica, fate tutto l'elenco. Ed è quello. Ed è quello. Allora Nietzsche fa una proposta che io non condivido. Che qualche volta c'è, anche in qualche partito politico c'è. Perché la politica dovrebbe essere la cosa più alta dell'essere umano, la più alta, la polis, fatta dai greci, dai romani, la cosa più alta dell'essere umano, ma noi abbiamo tradito i nostri figli. Tradito! Spiego. Spiego. Ma chi glielo fa fare a un giovane oggi di entrare in politica? Se il politico di turno, di qualsiasi colore, si presenta di nostri giovani e gli dice, sai, un conto il privato, un conto il pubblico. Siamo scemi, facciamo del male. Chi glielo fa fare di andare in un posto dove mi spezzo in due? Ma non avete ancora capito che o la persona è un tutt'uno, rischia tutto sé, ma se io spezzo non ci arrivano, non ha più presa. Allora, questa è un po' la crisi di oggi, del padre, del maschio, della norma, della regola, dell'autonomia, dei valori. Non è mica questo. Di fronte a questo, allora i nostri fanno un po' fatica, anche in famiglia, tutta quest'ansia viene buttata dentro la famiglia. Anche la famiglia si spezza. Tutto ciò che riguarda norma, regola, autonomia, sacrificio, si fa fatica. Io non sto dicendo giusto o sbagliato. Guardate la famiglia, dati statistici, non importa se qui sono separati o omosessuali, spiego subito questo. Io tolgo subito il fronte a tutto. Io sono convinto che il paradiso sarà pieno di separati, divorziati, omosessuali, perché andremo in paradiso non perché abbiamo perduto le cose che ci hanno detto, ma perché abbiamo passato il bicchiere d'acqua all'altro. Su questo quindi ci sono dentro tutti. Però Nessuno può negare che oggi la famiglia non sia in crisi. Guardiamo i dati freddi, statistici, freddi, nella freddezza. Inghilterra 53,2% di coppie che si mettono insieme e poi si lasciano. Germania 43,4%, Spagna 28%. Perché? Lo vedremo dopo il perché. Allora stiamo su questo momento difficile. Dire momento difficile non vuol dire negativo, ma è così. Tant'è, chiudo con quattro frasi di quattro personaggi che ci descrivono questo momento qua, che stiamo vivendo, per quanto riguarda l'educare la società di oggi. La prima, Maria Zambrano, questa grande filosofa contemporanea, diceva, filosofa spagnola, diceva: questa è una delle epoche più buie della storia dell'umanità. Parole sue, non mie. Secondo, Bauman, questo nostro sociologo, famoso, lo conosciamo, parla della società liquida. Liquida vuol dire che è tutti stes, che non c'è più la cosa più importante rispetto a quella meno importante. Terzo, Paul Ricoeur, questo grande filosofo francese, diceva: il dramma di oggi, sapete qual è? Che noi non parliamo più del bene e del male ai nostri figli, che noi non parliamo più della morte ai nostri figli, che non parliamo più della sofferenza, li abbiamo lasciati soli, soli. Quarto, il Papa. Che cosa dice? Il Papa ha beccato tutti i suoi cardinali e vescovini e gli ha detto: sentite per i miei, per 10 anni, stop. Tutti sull'educazione. L'abbiamo chiamata emergenza educativa. Dietro ci sta questa roba qui. Questo è quello che stiamo vivendo. Dobbiamo esserne coscienti. Di fronte a questo adesso andiamo a vedere cosa fare, come rispondere. Facciamo un passo avanti. Di fronte a questo, vedete, la società in cui viviamo ha delle risposte. Perché dobbiamo aprire gli occhi, signori, delle risposte. Andiamo a vedere prima le risposte sbagliate. Perché se non abbiamo le idee giuste, la prima risposta sbagliata si chiama esoterismo. Cos'è l'esoterismo? Accendi le televisioni private a qualsiasi ora, teta che è la donna che telefona alla maga di turno per sapere se quello è l'uomo della mia vita. Ma siamo scemi che me lo deve dire lei! L'esoterismo è quando c'è la fortuna, la sfortuna, tutto. Guardate quanto è scema la televisione! A noi psicologi adesso stiamo gestendo un pochino le dipendenze da gioco. E così, sapete, tutta la fragilità fa sì che sono un sacco di dipendenze. Adesso la televisione, perché si è accorta, perché è scema, dice, vi ricordate la pubblicità col Bisio, del lotto? Gioca, gioca, gioca, gioca, e poi alla fine gioca poco però, o gioca con moderazione. Ma siamo scemi. Prima lo invitiamo a gioco, e poi diciamo gioca poco. C'è una contraddizione enorme. L'esoterismo è quando sento qualcuno, mi è andata bene, mi è andata male, tutte queste robe qua, come se ci fosse qualcosa che... Il bullismo! Cari sindaci, non spendete soldi sul bullismo, sono soldi buttati via. Spiego, bisogna spegnere prima. Che cacchio serve i soldi del bullismo nelle scuole medie e superiori? Non serve a niente, guardate. Chi è il bullo? Il bullo è il ragazzino, fighettino, tosto, il quale vede qualcun altro, gli dà i cazzotti, lo tratta male e tutto il resto. Oppure, vi faccio vedere l'esoterismo del bullismo. Lui è lì, pensa di essere chissà chi, c'ha il suo compagno tosto anche lui, passa uno debole, quasi sempre un disabile, uno debole, e dice questa frase: toccati, perché quello lì porta sfiga, porta rogna. Sapete che cos'è questo? Questo è il male. Quando pensiamo che qualcuno sia portatore di qualcosa. E su questo poi mi aggancerò anche a livello politico. Sono fatto così, a me. Fino a quando avrò voce parlerò e griderò sui drammi che facciamo con i bambini. Ma stiamo qui. L'esoterismo, mi ricordo una volta vado in una classe, faccio l'appello ai ragazzi, come stai? Bene, eh? Classe superiore, seconda, terza superiore, come va? Bene. Chiamo una ragazza, come va? Ah, non sto bene. Cos'è successo? Dimmi, raccontami. E lei mi dice: ah, dottor Accetti, non sto bene. Oggi mi sono alzata con la luna storta. L'ho guardata e ho detto: ma sei scema, raddrizzala. Dipende da te. Raddrizzala. Un'altra stupidata dell'esoterismo, sapete qual è? Così ce la facciamo fuori la questione, poi la dimostreremo. Che qualche volta lo dicono anche i preti. Quando si dice che siamo fatti l'uno per l'altro, noi non siamo fatti l'uno per l'altro, toglietevelo dalla testa! Questo è un messaggio esoterico, spiego! Noi non siamo fatti, non diteglielo più dei fidanzati una panzanata del genere! Non diteglielo più dei giovani una stupidata del genere, facciamo del male! Noi non siamo fatti l'uno per l'altro! Perché appena va male, allora vuol dire che non ero fatto per te. Li freghiamo tutti. Allora, l'altra risposta errata è la mancanza di punti di riferimento. Non c'è più il bene e il male. Fanno fatica i nostri ragazzi, sapete. L'altra ancora è la crisi del corpo. Perché mi soffermo sul corpo? Semplice. L'84% della pubblicità televisiva riguarda il corpo. Il corpo è importantissimo oggi, una società mass mediatica riguarda il corpo. Tu alla televisione devi avere delle ragazzine fighettine, toste e belle, vestite bene, riguarda il corpo. Non è sbagliato essere vestite bene, sapete? Assolutamente. Poi vedremo che cos'è la crisi del corpo. Noi stiamo prendendo un corpo e lo stacchiamo da tutto il resto. Pensate alla pornografia. Voi pensate di cavarvela ad andare a dire ai giovani oggi che non devono vedersi film pornografico? Ti dice cosa sei? Ti dice, ma sei scemo? Il film pornografico? Nel film pornografico siamo di fronte a dei corpi belli. Vagliela a dire che è brutto quello lì, ma stai dando i numeri, il corpo è bello. Nel film pornografico siamo di fronte a un rapporto sessuale, mica è brutto il rapporto sessuale. Ma c'è una fregatura dietro, cacchio! Ma noi la sappiamo qual è la fregatura? Se non abbiamo le idee chiare sul corpo, lui c'ha ragione a vedersi tutta la pornografia di sto mondo. C'ha ragione se noi non abbiamo un pensiero alto. Noi li abbiamo lasciati senza punti di riferimento, senza fondamenta. È una casa, la gaminga, i fondamenta, viene su storta. Poi ce la mettiamo lì, ce la ricommendiamo, siamo tutti a livello, vedremo quali sono le fondamenta. Senza fondamenta non hanno la possibilità di avere una visione lunga. Per non parlare poi dei due grandi errori che vengono compiuti, stiamo ancora sulle risposte errate. Di fronte a questa società, due grandi errori. La prima si chiama adultizzazione infantile. I nostri bambini non vivono più le emozioni dei bambini. Trasmissione come ti lascio una canzone, come bravo bravissimo, come quella della Clerici che è scema, spiego. E a me non interessa che voi lo andate in giro a dire. E spiego perché ogni volta che tu fai vivere a un bambino delle cose da grandi, tu lo rovini questo bambino. I nostri bambini, se non vivono le emozioni della loro età, quando diventeranno grandi, abiteranno case che non sono le loro case. Una volta ho visto la trasmissione della domenica mattina, c'era vero verissimo quella donna lì, presentatrice, fighettina, tosta, c'aveva il bambino lì di 8 anni e chiedeva al bambino, senti, mi racconti chi era tua fidanzata? E lui facendo la parte da grande raccontava tutto e il pubblico a battere le mani faceva tutta la scena. Questo è il male. Lui quando diventerà grande non sarà più capace di prendere in mano sé. Noi facciamo diventare i bambini degli adulti. Quando una trasmissione per un bambino è semplice, quando l'adulto entra nel pensiero fantasmagorico del bambino e dà le cose importanti. Trasmissioni come la Melevisione, Art Attack, la Pimpa, Pingu, bellissimi. Teletubbies, anche quello. Ciao, ciao, ciao. E il bambino lì, ciao, ciao. Perché? Perché entra nel suo pensiero. Nel suo pensiero. Allora, il primo errore che rischiamo oggi è far diventare i bambini grandi. Il secondo errore si chiama l'infantilizzazione dell'anziano. Non ci sono più i vecchi. Eppure siamo così stolti come società. L'anziano è portatrice di saggezza. Potremmo veramente prendere l'anziano e rinnovare tutto il resto, invece no. L'anziano oggi, per essere visto, deve diventare giovane. Quella pazza di quella donna che è patologica, che si chiama De Filippi, nella trasmissione Uomini e Donne, prima metteva i maschi e le femmine a fare così, adesso arrivano le vecchiette. Ma siamo scemi che quella lì deve fare la vecchietta! Allora, il secondo errore è l'infantilismo, la infantilizzazione degli anziani. Quindi le risposte errate sono tali per cui oggi la società è prettamente adolescenziale. Fighettina, tosta, prettamente emotiva. E come tutti gli adolescenti, è contraddittoria a tutte le cose che ha. Bene, quali sono allora... Ah, voglio dire qualcosa anche sul relativismo. Anche Dio. Certo? Oggi c'è una crisi di Dio. Spiego? Qui rischio tutto stasera. Rischio tutto. Voi pensate che Dio ce la caviamo col crocifisso nelle classi? Non abbiamo capito niente di Dio. Niente. Una volta c'erano almeno i non credenti. Cacchio, col non credente tu potevi dialogare. Lui non credeva, tu no, eccetera. Oggi, uè, che più nessuno che non crede. Più nessuno. Più nocciolo, oggi credono tutti. Credono tutti. Il dramma è questo, che oggi Dio c'è. Certo che c'è Dio. Purché non rompa le balle, purché non scuoti più, non è più un Dio che scuote. Un Dio che abbiamo preso e gli facciamo fare quello che vogliamo noi. Il rischio di oggi è quello che è il rischio che sta capitando, quello che aveva previsto un grande pastore luterano. La Chiesa non può farlo santo, ma dovrebbe farlo santo. Non era cattolico, ma per me era un santo. Si chiamava Dietrich Bonhoeffer. Nel suo libro L'esistenza è resa diceva: temo che avremo un Dio tappabuchi. Quando mi serve lo prendo, quando non mi servo più lo metto via. Non è più un Dio che scuote, un Dio che cambia. Perché un Dio scuota, bisogna fare l'esperienza di Dio. E anche la Chiesa lo deve capire oggi. Come sarà l'esperienza di Dio oggi? Se abbiamo i giovani emotivi, devi tener conto di questo. Voi pensate che oggi un giovane vada in chiesa perché gli interessano i 10 comandamenti che sono importanti? Che sono importanti? Sapete oggi perché un giovane deve andare in chiesa? Per lo stesso motivo per cui voi avete messo su baracca. Perché ti sei beccata la cotta del tuo uomo. Volete che un giovane vada in chiesa oggi? Fategli beccare la cotta di Gesù. Allora sì, la cotta di Gesù. Ma possiamo fare questo solo se abbiamo una visione di Dio. Sapete chi è Dio? Stavolta parlo da credente, chiedo scusa se sono credente. Racconto sempre questa esperienza. Una volta avevo 8 vescovi di fronte a me, in Umbria. Ero stato invitato a parlare sulla famiglia. Non sanno il rischio che hanno corso loro. Avevo 8 vescovi. C'avevo le eccellenze lì di fronte a me. E dico le eccellenze. Eccellenze. Sapete chi è Dio? Immagino, io Pisquale, vado a dire il vescovo chi è Dio, rischio di ciaccio. Allora, in quel momento sentivo una forza enorme. Sapete chi è Dio? E dico questo, eccellenze. Quando ve lo dico, lasciatemi finire la frase, non intervenite subito. Vi dico io chi è Dio. Dio è come un insufficiente mentale, spiego. Un insufficiente mentale, uno logorroico, che ha un chiodo fisso, un chiodo fisso, un chiodo fisso. Fa sempre la stessa roba, ripete sempre la stessa roba. Dio c'ha un chiodo fisso. Il problema di Dio è uno solo, che è cotto. Dio è cotto di noi, è innamorato di noi. Questo è Dio. E se qualcuno mi dice che noi dobbiamo fare la volontà di Dio, cerchiamo di capirlo. Sono balle, spiego. Se voi siete giusto il corpo di una donna, tu non vorreste mai che quella donna lì stesse con te perché è obbligata. Nessuna persona qua seduta vorrebbe che la sua donna, il suo uomo, stesse con lui o con lei perché è obbligato. Nessuno. Dio non vuole niente da noi. Dio non pretende che noi gli andiamo dietro, perché Dio è cotto. Però, appena la tua donna ti dice di sì, tu la riempiresti di regali. Dio una volontà ce l'ha, sapete qual è la volontà di Dio? Che lui ha una voglia matta di stare con noi, una voglia matta di stare con noi. Basterebbe che noi apriamo la porta e lui ci riempie, e sapete, e Dio non è là, balle, Dio è pratico, concreto, ti fa sentire felice, ti fa scoppiare un cuore. Allora prendi un giovane, fagli beccare la cotta di Gesù, e se gli scoppia il cuore gli va dietro. Questo è Dio, non è un Dio castiga matti. Io mi arrabbio con certi preti che sono lì a mettere tutte le paure. Dio non mette mai la paura all'uomo, Dio ci sostiene, ma oggi c'è questa crisi, è la crisi di Dio. Di fronte a questo, allora, che ore sono? Che ore sono te? Che qui finisco più. Allora, penultimo lucido. A questo punto, se questi sono gli errori, qual è la risposta corretta? La risposta corretta. Quali sono i fondamenti che dovremmo passare ai nostri giovani? Che noi come società adulta, quando non ci saremo più, dovremo passare queste 4 o 5 cose, lo dirò. E se non gli diamo questi, noi li abbiamo fregati! Fregati! Noi gli abbiamo dato la corda a cui aggrapparsi per portare avanti il futuro. La prima. L'essere umano è relazione. È relazione. Non che noi abbiamo delle relazioni. Noi siamo delle relazioni. Noi non siamo un gamete maschile e femminile. La prima, un bambino vive dalla placenta con la mamma. La prima parola che un essere umano, sapete qual è? Non è io, è mamma, papà, è l'altro, l'altro. Vi ho detto che non mi interessa di che partito siete, dico questa roba. Nel 2053 saremo metà e metà. Sono proiezioni, no? Metà noi e metà extracomunitari. Queste sono le proiezioni, non è Ezio Ceti che lo dice. Se siamo intelligenti, dovremmo educare alla relazione tutti i nostri bambini. Adesso dico una cosa che qualcuno di voi non la condividerà, ma è bello anche avere idee diverse. Qualsiasi partito politico, di qualsiasi colore, che mette dentro nel cuore di un bambino piccolo la paura dell'altro, uccide l'anima di un bambino. Ho detto l'anima! L'essere umano è relazione. L'educazione alla prosocialità a tutti i nostri bambini e le materne, tutti! Previene il bullismo, perché se un bambino si aiuta a trattare bene l'altro, quando diventerà grande, per lui sarà normale, tradizio, virtù, trattare bene l'altro. Perché io insisto con i bambini? Sapete perché? È semplicissimo. I primi 6 anni è come se noi avessimo 1 milione di euro in banca. Spiego perché. Il bambino fino ai 6 anni ha una percezione di noi genitori. Ci vede come il Dio in terra, come l'assoluto. Tutti i bambini. Allora se lui mi vede come l'assoluto e io gli metto dentro i germi bene, quando la pianta è piccola, crescerà. L'educazione alla prosocialità e l'altruismo in tutte le scuole materne, se siamo intelligenti. Seconda roba, la scuola materna, cari amministratori, è la scuola più importante d'Italia, la più importante. Altro che il volo a scuola materna, l'insegnante di scuola materna dovrebbe essere laureata, preparatissima. Nella scuola materna dovremmo investire molto di più, è la più importante d'Italia. Perché se io faccio un errore con un bambino piccolo, è come una pianta, le tracce sono profonde, è lì. Ma noi pensiamo che i bambini basta una robina in C. Non abbiamo. Il Papa prima di morire gliela cantate, prima ai cardinali gliel'avete. Giovanni Paolo II prima, ai cardinali gliela raccontate su. Cosa ha detto Giovanni Paolo II prima di morire? La via della Chiesa sarà l'uomo. Ma noi lo conosciamo l'uomo, soprattutto quando è piccolo. Va investito lì, se siamo intelligenti. Seconda verità. Non è scritto la cosa sul corpo. Lo dico solo. La seconda non c'è scritto, lo dico, il corpo manifesta tutta la persona. Che riprende la terza, ogni qualvolta il mio corpo manifesta tutto me, io mi sento contento, felice, realizzato. Ogni qualvolta che il mio corpo non manifesta me, io dopo un po' mi sento triste, solo e vuoto. Quando un maschio vede un film pornografico, gli piace, lo attira, tutto quello che volete. Quando viene via, dopo un po' si sente disagio, si sente triste dentro. Perché cacchio si sente triste? Mica solo perché è peccato, anche. Ma perché noi, quando siamo nati come un programma, questo PC per andare, c'ha bisogno di un programma, senza programma non va. Noi abbiamo un programma dentro, noi siamo programmati per l'amore. Questo è il programma che abbiamo dentro e questi sono i nomi di questo amore qua, di questo programma. E se questi qua vengono rispettati, funziona. Pensate alla differenza fra un film pornografico e due vecchietti che sono insieme da 40 anni. Che cacchio diciamo noi? Del film pornografico sono di fronte due corpi nudi, belli, che stanno facendo una cosa falsa. Noi siamo programmati per il vero. Ogni volta che c'è una cosa falsa, dopo un po', ci sentiamo a disagio. Quando in televisione vediamo delle ragazzine belle fighettine vestite bene, non è il vestito che ci dà fastidio. È quando loro appaiono ma non pensano quello che fanno. Dentro sentiamo che c'è una differenziazione fra il loro vissuto e il loro apparire. Ci dà fastidio. Perché noi siamo programmati così. Quando c'è una roba vera ci piace. Quindi io non ce l'ho col corpo. Anzi, il corpo è bellissimo se manifesta tutta la persona. Due vecchietti che sono insieme da 40 anni, non vogliamo manco vederli. Ma non per pudore, sapete perché? Perché nella nostra testa immaginiamo che quello che c'è fra loro è talmente bello, è talmente vero, che la chiamiamo intimità. Le parole rappresentano una storia. Nel primo caso dovremmo avere un coraggio. Non ce l'abbiamo più. Anche i preti lo dico. Dovremmo chiamarla morbosità. Morbosità. E qui non si tratta di essere puritani, poche storie. Si tratta solo di essere intelligenti. Allora la seconda, il bello e il vero mi danno gioia. Gioia vuol dire che lo sento concretamente, non è una robina così. Il falso mi dà tristezza. Terzo valore, sull'amore. Oggi l'amore, cacchio, è solo attrattiva, è solo sentimento. Entrate nelle edicole di Mondovì, prendete qualsiasi giornale femminile, il 90% del giornale che prendono le donne e le nostre figlie dice solo una roba, che l'amore è solo attrattivo e sentimento. Io e te abbiamo messo su baracca, dopo un po' l'attrattiva è diminuita, quindi non ti amo più. Sull'amore si gioca tutto lì. Attrattiva, sentimento, l'uomo della vita, la donna della vita. Noi stiamo imbrogliando tutte le nostre generazioni su queste, sapete? Le stiamo imbrogliando. Vi spiego perché si educa con un esempio semplicissimo, che lo capirete perché lo vivete. Sempre la Ishura. Quanti figli c'ha? 3. Bene. Io sono convinto che alcuni dei suoi bambini, non solo lei, anche di altri, che le donne che hanno qui più figli, magari il suo bambino è venuto a dire: ma tu mamma vuoi più bene a quell'altro? E così qualche volta ci capita, no? Hanno perfettamente ragione i bambini a dirci questo, perfettamente ragione a dire: tu mamma vuoi più bene all'altro, perfettamente. Vi ho detto che nell'educazione non vi capiterà mai una volta in cui ragiona l'altro a torto, quindi il bambino ha ragione. Certo, non venitemi qui a raccontare le mamme che sono qua, che hanno tre o quattro figli, che voi li amate allo stesso modo. C'è quello che gli tira resto il collo, quell'altro che ti sente un po' più di così, quell'altro più di così. Ah, oh, c'è l'amore materno, porcaccia la miseria, certe volte gli dà un calcione al sedere. Certo, certo che vi viene. E voi pensate che loro non lo sentono, cacchio che lo sentono. Altro che l'amore materno che ama tutti, l'amore paterno, ma quello non è raccontare balle. Loro lo sentono e tua mamma gli vuoi più bene a quell'altro. Loro hanno perfettamente ragione a dire questo. Ma non hanno tutte le ragioni. Hanno le loro ragioni. Tant'è che sono convinto che tutte le mamme qua sedute, di fronte al figlio che gli dice questo, voi potete rispondere così: no. Sappi che io voglio un mare di bene a te e un mare di bene a quell'altro. Sono convinto. Perché? Questo è l'amore, perché nonostante che emotivamente noi possiamo provare attrattive diverse, tutti voi siete pronti a dare la vita per tutti i vostri figli. Cosa vuol dire questo? Che l'amore allora non è solo attrattivo e sensitivo, ma c'è anche la volontà, c'è anche l'intelligenza, è tutto. Secondo, l'amore si educa, si impara, si educa. È sempre possibile l'amore. Allora dei fidanzati, dei sacerdoti dovrebbero dire questo: cari ragazzi, voi non siete fatti l'uno per l'altro, siete fatti per l'amore. Amatevi e diventerete l'uno per l'altro. Io sono sposato da 28 anni, non potrei vivere senza la mia donna, gli voglio un mare di bene, però ci siamo compenetrati. Ed è più vero, perché allora dipende da me e da te. Allora la nostra storia dipende da me e da te, non dalla fortuna, la sfortuna, le balle che ci hanno raccontato, dall'attrattiva e non l'attrattiva. Parliamo alle scoppie che sono qua, anche quelle belle cattoliche, ma non venimi a raccontare balle che tu dopo il matrimonio non hai provato, che hai provato un sacco di scalugamenti, un sacco di robe, un sacco, e tante volte ti è venuta la voglia di sbattere, di scappare via, altro che la bella moglie cattolica e tutte quelle balle lì. Spiego. Certo. Quante coppie hai messo su baracca, ciccino mio, ciocchiottino mio, dopo un po' arrivano le tensioni, le ansie, l'attrattiva diminuisce. E quando l'altro non ti dice più niente, è qui che avviene l'amore. Se io guardo solo la dimensione sensitiva, non sento più attratto, e tanti di voi l'avete provato questo. Ma in quel momento, anche se io non provo più niente per te, questo non significa che non posso amarti. Posso ancora farlo con l'intelligenza e la volontà. E se voi fate la scelta dell'altro con intelligenza e la volontà, dopo 5-6 mesi, non un giorno in più, sapete che cosa capita a quello che è capitato a tante coppie qua? L'affettività ritorna, avviene l'interiorizzazione dell'altro e l'interiorizzazione dell'altra, perché è frutto dell'amore. Ma che cos'è l'amore? Già sempre insegnato i preti, giustamente, che uno degli amori più grandi è l'amore di amicizia. Chi è il tuo amico o la tua amica? È quello che sta con te non per interesse, perché si è fatto così, punto e basta. Così fra voi due. All'inizio l'amore interessato, sposo, che mi sento attratto, che mi dà qualcosa, che mi piace, eccetera. E quando c'è freddezza, che io posso amarlo per quello che è e non per quello che mi dà. Certo che se sono stato educato da piccolo, per me sarà naturale fare una roba di questo genere. Certo che se sono autonomo sarà naturale. Perché non ce la fanno oggi? Per due motivi di fondo. Primo, perché non educhiamo più all'amore. Secondo, perché a livello educativo li abbiamo abbandonati. Parlo alle donne che sono qua. Sarò molto duro stavolta. State sedute donne, ma sarò molto duro. Fino ai 6 anni, la mamma è tutto per un bambino. Tutto! La cosa più tremenda che possa capitare a un bambino è l'abbandono materno. È tutto. Perché la capacità d'amare che la donna ha, noi non l'abbiamo. Quando un bambino vuole tratta male qualcuno, tratta male la mamma. Quando ha paura, vuole la mamma. Tutto, tutto, perché la donna ha una capacità analitica straordinaria. Tutto. E quindi, bene. Dopo i 6 anni, però, fuori dalle balle la madre. Fuori dalle balle la madre. Perché? Ho detto che è tutto prima. Ho detto che è tutto. Dopo i 6-7 anni non abbiamo fatto la psicologia infantile. Lo farete nella scuola. Lo farete quando farete la scuola. Per genitori, e guai, voi se non venite, vi stacco la testa a tutti. Dove bisogna venire a scuola? Perché lo farete lì. Il bambino a 7 anni impara a stare nella realtà. Prima dei 7 anni l'educazione si chiama prevenzione e tolleranza. Dopo i 7 anni l'educazione, sapete qual è? Quella che abbiamo noi grandi. Se lui impara a stare nella realtà, la donna, anche se gli vuole un mare di bene, è vostro bambino. Voi vedete sempre la parte, lo trattate sempre da bambino piccolo. Il 90% dei litigi che avvengono in famiglia fra marito e moglie, sapete perché avvengono? Semplice. Il bambino è come una statua. Se io descrivo la statua da una parte, descrivo alcune cose. Se la stessa statua la vedo da dietro, ne descrivo altre. Sono scemi i due genitori, litigano, ma tutti e due vedono delle cose giuste. Il padre di solito vede la parte grande e la madre la parte piccola. Quanti litigi facciamo per niente? Per niente. Dopo i 6 anni la madre dovrebbe sparire. Letteralmente. Ma anche qui. Chiudiamo questa parte. Io sono la tua mamma. Ho detto che il papà fino ai 6 anni vede la mamma come il Dio in terra. Per lui è tutto. C'è qualcuno qua seduto, cacchio! Io ho 6-7 anni. Mi devo separare dalla madre, perché se non mi separo, tant'è che fanno fatica a separarsi, la manipolo, studio quando me lo dice lei, gli fa fare quel cacchio che vuole, lo sapete benissimo, figli, eh? Se non mi separo, io non cresco. C'è qualcuno qua seduto che sa dire a me che ho 6-7 anni? Perché mi devo separare da quella donna lì che per me è tutto? Per me è tutto. Per quale motivo io devo separarmi dalla mia mamma? Che è tutto. Perché? Perché? Perché tu, mamma, non sei mia. Tu, mamma, non sei mia! Glielo dovete far capire, un bambino di 7 anni. E se non sei mia, di chi cacchio sei? Di quell'uomo lì. Di quello lì. Due suggerimenti pratici, sapete che lo do sempre. Primo, tutte le mamme qua sedute mi ascoltino. Anche se non siete sposate, separate, amate, fate quel cacchio che volete, ma ascoltate. Una sera alla settimana, sto parlando a tutte le mamme. I mariti qua mi pesteranno. Una sera alla settimana mandate a quel paese i vostri figli, i vostri mariti, fuori dalle balle. E uscite e andate a fare qualcosa che vi piaccia, purché sia lecito. Non è che una donna può andare con altri uomini, no! Perché il pretino qui mi ha... Fatelo! Perché non vi è mai capitato, care mamme, di arrivare alla fine della settimana? Sei mangiata dalle cose da fare, mangiata! Questo, e vai a posto! E poi se c'è qualcosa che sbagli ti senti in colpa. E poi il marito che ti dice, ma con me i bambini sono così bravi, cacchio, è mica innamorato di te, della donna che è innamorato. Una sera alla settimana andate via. E smettetela di dare istruzioni ai papà, si arrangiano solo cavoli loro. Secondo, 2 volte al mese, così chiudiamo qua perché ho quasi finito. 2 volte al mese. Tu mi hai già sentito parlare, vero? Lo sai già. Chi è che non mi ha mai sentito parlare che è sposata qua? Bene, ascolta bene me te. Tu ce l'hai dei figli? Quanti ne hai? Sono un po' pochi due, ascolta bene me. Il marito ce l'ha? Che età hanno i suoi figli? Bene, è 8, bravo. Ascolti bene me, Shura. Mi dica, quante volte esce alla sera, durante il mese, da sola con suo marito? Mai, l'avete sentito mai. Ma siamo bacati qua! Adesso mi ascolta, Shura. Ascolti bene me, sono io, non vengo più a Mondovì. Vengo più a Mondovì. 2 volte al mese. Da quando il bambino ha un giorno che fa uè, fino a quando avrà 30 anni, perché una volta si scappava a 14 anni, c'hai 30 anni, sono sempre lì, non posso avere le balle, ma io sono lì. 2 volte al mese mandate a quel paese i vostri figli. Piazzateli dalla nonna, dalla babysitter, portateli dal prete, al sindaco, fate quel che volete voi. E poi il papà deve dire al bambino, al papà, mettiamo che c'è il bambino di 3-4 anni, deve dire questa frase: io questa sera esco con mia moglie, che lui non sa chi è la moglie, un'altra donna, il papà ha trovato l'altra donna. Allora il bambino risponderà dicendo così: voglio venire anch'io, allora il papà, perché le donne non sono capaci. Il papà deve dire no. Quando diventerai grande e avrai la tua fidanzata o il tuo fidanzato, dice lei, con lui e con lei, sapete cosa prova il bambino? Mi ha fatto gli esperimenti. 2 volte al mese si abitua a stare senza genitori, che è importante sull'autonomia. Secondo, le donne mi ascoltino. Il bambino vede che fra il padre e la madre c'è uno spazio, una tenerezza, una dolcezza, un tempo. si fa più educazione affettiva e sessuale così che non con tutte le balle che gli diciamo, sapete. E quando diventerà grande lui tratterà bene la sua donna perché l'ha visto. Ma soprattutto, diceva Marcello Bernardi, questo grande pediatra italiano, guardate quanto siamo scemi in Italia. In Italia abbiamo avuto dei grandi personaggi, da Petter, da Bollea, da Bernardi, non parliamo mai di loro. A maggio è morto Petter. Petter è stato uno dei più grandi psicologi, ha portato Piaget in Italia. Senza lui Piaget non l'avremmo conosciuto in Italia. Abbiamo fatto niente su Petter. Non abbiamo parlato di lui. Noi siamo scemi, sapete. Bollea, che ha avuto un amore per i bambini viscerale. Cosa ha fatto Bollea? Non vi immaginate? Niente. Muoiono certi personaggi? Niente. Non diciamo nulla. Non parliamo dell'eredità pedagogica che ci hanno lasciati. Sapete cosa diceva Bollea su questa roba qua? Il bambino, quando in noi lo lasciamo da solo e così, e ci vede che noi usciamo, Bollea dice, il bambino prova la cosa più grande che un essere umano possa provare sulla faccia della terra. Lui dice, il bambino inconsciamente sente che è nato da quell'amore lì. E quando un bambino sente che è nato dall'amore, è fatta. È fatta. Allora chiudiamo. Oltre a questi valori che dobbiamo trasmettere loro, cerchiamo nella scuola di fare questo tipo di educazione. Primo, se siamo nella società delle emozioni, facciamogli intelligenti. Educhiamo le emozioni tutti i bambini. Tutti i bambini. Non, perché l'emozione non è negativa, è energia. Se io la prendo in mano è una ricchezza. Se non la prendo in mano è lei che domina me. Educhiamo tutti i bambini alle emozioni. Secondo, educhiamo tutti i bambini alla relazione. Educhiamoli alle autonomie. Cioè, il futuro è nell'atteggiamento educativo. Cosa vuol dire autonomie? E chiudiamo. Due proposte semplici. Primo, hai già sempre due figli, Sura, vero? Che già hanno i figli? Che età hanno? 5 e 8. Mi dica, signora, quanto dà di mancia al bambino di 8 anni? Di mancia? Niente. Okay. Niente. Perché quando il bambino ha bisogno me lo chiede, vero? Non vuole niente, poi il bambino. Sempre la tetta, la tetta, la tetta. Vi faccio vedere la crisi lavorativa dov'è? Nessuno me lo toglierà dalla testa. Vi faccio vedere dov'è la crisi lavorativa. Vi ho detto che la crisi lavorativa sono i banchieri disonesti. La crisi lavorativa sono quelli che ci hanno fregato. Che hanno barattato i conti. L'etica la si dà ai 6-7 anni. Primo. Tutti i genitori qua, tutti, dai 7 anni date la mancia ai vostri figli. La mancia, perché la mancia non sono i soldi. Non abbiamo capito niente dei bambini. Ai 7 anni il bambino è capace di stare nella realtà. Io devo diventare autonomo, capace di stare nella realtà. Se siamo poveri possiamo dare 1 centesimo. Non importa quanto diamo, 1 centesimo, 1. E si dà la mancia non perché è stato bravo o cattivo, cacchio, è un suo diritto. Se siamo poveri, gli diamo 1 centesimo, ok? Non, quanto diamo lo stabiliamo noi. Poi il padre fa così, questo, il padre dà l'etica, questi i tuoi soldi, puoi metterlo nel salvadanaio, darlo ai poveri, l'etica la si dà così, ti deve bastare per questa settimana. Voi vedrete che i bambini all'inizio li spendono tutti, dopo un mese troverai quel bambino che comincia a vedere che il pacchetto di figurine che costa 40 centesimi, lui ne prende 10 alla settimana, lui per 4 settimane potrà tenere i suoi 10 centesimi per comperarsi il pacchetto che costa 40 centesimi. Sapete cosa ha fatto il bambino? Quello che facevamo noi quando eravamo piccoli, si è sacrificato, ha rinunciato a qualcosa di sé per un bene più grande. Eric Yor dice, i nostri bambini sono viziati perché noi non li facciamo più, non li educhiamo più al sacrificio. Perché parliamoci chiaro, cari vecchietti, noi non eravamo viziati, mica per le balle che mi raccontate voi. Il vecchio dice, beh, me sono mica viziato, perché quando ero giovane sono stato obbligato a fare le robe. Non è tutta la verità, è una parte. Perché se la racconti tutta dovresti dire, me sono stato obbligato a fare le robe. E ho sperimentato da piccolo che sacrificarmi per un bene più grande era bello, perché nessuna persona qua seduta, nessuna, sarebbe disposta a sacrificarsi se non per un bene più grande. Ricordo dice, ma se i nostri bambini non gli facciamo fare questa esperienza, perché si devono sacrificare? La mancia a tutti i nostri figli. Secondo, i mestieri di casa. Fanno i suoi mestieri i suoi figli, Sciura? Qualche volta, no? Aiutano. Noi ce la caviamo dicendo, aiuta la mamma a fare i mestieri di casa. Sta tetta che vaga! Il giorno che non c'ho voglia, c'ho già fritto. Allora, così chiudiamo. Dei 7 anni, vi dico come si fanno i mestieri di casa. L'educazione dei 7 anni è come noi adulti, si chiama contratto. Se te t'avvi dal tuo datore di lavoro, fai l'accordo con lui, e nel contratto ciascuno mette dentro tutto. E si fa così, non si dice al bambino aiuta la mamma a fare i mestieri di casa, sembra che dipende da questa tetta. Si fa l'elenco dei mestieri di casa, apparecchiare, spalle, tutto l'elenco. Poi si fa in trattativa come da grandi. Mettiamo che è un figlio di 9 e uno di 7. Allora tu a quello di 9 gli dici, adesso tu fai 5 cose, il papà, e tu fai 3 cose. Voi vedrete subito questo, che i bambini brontoleranno, troppo, troppo, troppo. Bene, io vorrei che fosse scritto fuori in tutte le scuole italiane e anche le chiese questa frase. La cosa più bella che un bambino possa fare è brontolare uguale bellissimo, bellissimo, bellissimo. Se noi amassimo i bambini, cos'è il brontolare? Ma che cacchio vi siete chiesti? È la sua idea sulla realtà. Quando eravamo giovani noi volevamo rispondere ai nostri genitori. Enga mia più dit, non abbiamo potuto. E la sua, non ho detto che ha tutte le ragioni, è come quando tu vai al datore di lavoro, tu vuoi una roba e lui ti dice di no, ti fa una controproposta. Che cosa facciamo col datore di lavoro? Contrattiamo, lottiamo. Così un bambino deve lottare con suo padre, discutere. È bellissimo, l'educazione di 7 anni è una lotta con la realtà. Ma devo dire la mia idea. Quando poi ha finito di discutere, si arriva all'accordo. È come quando andiamo dal datore, dopo che abbiamo discusso si arriva all'accordo. Ammettiamo che lui dica, io apparecchio la tavola tutte le sere, è venuto fuori dopo una lite, dopo un accordo, l'ho fatto con mio padre che è la realtà, non ho finito. Poi è sufficiente che per 15 giorni il padre controlli che lui apparecchia la tavola e lui per tutta la vita apparecchierà la tavola, per tutta la vita, ma perché? Perché mio padre, che è la realtà, si è preso cura di me. Il padre è colui che non molla mai e si prende cura dei figli. E chiudiamo allora con l'ultima cosa che volevo dirvi. Chiudiamo con questo, sul padre. C'è un film bellissimo che io ve lo consiglio. Sarebbe bello che vi facciate una serata con questo film. Si chiama Il dottor Korzak. È un film vero. Korzak era un pedagogista ebreo, di Vaida, un film in bianco e nero. Questo che vi racconto adesso è successo veramente, è scritto e pubblicato. Chi era Korzak? Perché anche questo è un grande personaggio. Era un pedagogista ebreo. Siamo nel 1939-40. La Germania invade la Polonia. Invade, creano il ghetto ebraico e tutto così. A un certo punto chiamano Korzak. I capi ebrei chiamano Korzak. Guardi lei, Korzak, lei è un bravo pedagogista, è bravo. Ci prende i nostri bambini, ce li educhi, perché sentiamo che deve farlo. Lui apre un grande orfanotrofio, prende più di 200 bambini ebrei, piccolini e grandi, li educa tutti, con un sistema straordinario, con un rispetto verso loro eccezionale, straordinario, perché Korzak era Korzak. I capi tedeschi rispettavano Korzak, non osavano toccarlo, anche se era ebreo, non osavano. A un certo punto Korzak capisce questo. Capisce che la roba non sarebbe andata avanti tanto, che i bambini sarebbero potuti morire. L'aveva intuito, non era stupido. Vorrei fare una domanda ai padri che sono qua. Ammettiamo che a un certo punto voi sappiate che i vostri figli forse dopo poco tempo devono morire. Che cosa fareste? Vi dico cosa ha fatto Korzak, che è il padre. Cosa ha fatto Korzak? Aveva intuito questo. Guardate che questo è tutto scritto, tutto pubblicato, lo vedrete nel film. Lui allora fa l'unica cosa che un padre può fare. Aiuta i bambini a capire la morte. Fa fare una rappresentazione teatrale ai suoi bambini. Immaginano i bambini e fanno tutta la rappresentazione di un altro bambino che muore. Gli fa dire le parole e tutto il resto. Tutto nella rappresentazione teatrale. A un certo punto, e questo è quello che ha fatto Korzak. Poi arriviamo, dopo un po', arriva la Gestapo. Dopo un po' di tempo. No, ci dia i bambini. Dobbiamo portarli via. Korzak non era stupido. Sapeva che sarebbero andati a morire nella camera a gas. Non era stupido. Si vede nel film i bambini scendono. Il primo bambino con la bandiera verde davanti, la bandiera verde dell'orfanotrofio. Tutti i bambini come degli ometti in fila. Poi i capi della Gestapo dicono questo a Korzak. Adesso lei vada. Volevano salvarlo. Sapete quella risposta che Korzak dà? La risposta che dà un padre. Dice questo Korzak. non si possono lasciare soli i bambini in questo momento. Non possiamo lasciarli soli. E sale dietro i bambini e va a morire nella camera a gas con tutti i suoi bambini. Questo è il padre. Grazie.